sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Durerà due anni, recessione fino al 2009 per l'Italia e disoccupazione in crescita in tutta Europa. Ecco le previsioni di Bruxelles. 24 ore al voto americano, sondaggi ancora in favore di Obama, in XL i reportage da Chicago e dall'Iran. C'erano pallottole persino in un asilo nido, rapina violenta in una banca del Sassarese, feriti due clienti, uno è grave. Nessuna collaborazione, nessuno ha visto o sentito nulla. Ecco Secondigliano il giorno dopo l'agguato ai ragazzini. In Campania sono finiti i soldi per la sanità, in molti costretti a pagare le prestazioni a prezzo pieno, anche se esenti dal ticket. 170.000 nuovi ingressi di immigrati secondo il decreto flussi previsto dal governo. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Dunque, stando ai sondaggi delle ultime settimane, non ci sarebbe partita. Eh sì, anche oggi una nuova rilevazione effettuata questa volta dai Reuters e Zogby dà in netto vantaggio il candidato democratico alla presidenza americana Barack Obama e lo dà in vantaggio rispetto al repubblicano John McCain in 6 degli 8 stati chiave per le elezioni, inclusi Florida e Ohio. E facciamo un altro conteggio, lo ricordiamo, negli Stati Uniti non è direttamente il voto popolare ad eleggere il presidente, ad ogni stato è assegnato un certo numero di cosiddetti grandi elettori. Ebbene, secondo il sondaggio, Obama avrebbe ora 328 voti elettorali, ben più dei 270 necessari per arrivare alla Casa Bianca. Torneremo a parlarne più tardi, intorno alle 13.45, con l'intervista a un uomo che ha conosciuto bene Obama, il suo primo datore di lavoro, ma avremo anche modo di sentire che cosa pensa l'Iran, uno dei cosiddetti stati canaglia, di queste nuove elezioni americane. Ma prima di tutto andiamo a Bruxelles, dove sono state presentate le previsioni economiche d'autunno. In diretta Enrico Brivio. Allora Enrico, il quadro è fosco. Sì, c'è uno scenario europeo macroeconomico sempre più cupo e vari indicatori economici che indicano un'Italia entrata in una recessione tecnica. Secondo le previsioni rese note dalla Commissione europea, in particolare vi è stato un andamento negativo della produzione industriale, della fiducia delle aziende, che indica l'entrata nella recessione. E quindi sia nell'anno in corso che nel 2009 la crescita italiana viene vista da Bruxelles piatta, cioè pari allo zero. Uno scenario però che l'anno prossimo condivideremo anche con le altre due grandi economie dell'area euro, Germania e Francia. Il commissario europeo per gli affari economici, Joachim Almunia, ha infatti spiegato che la recessione è un rischio reale per vari paesi, per tutta la zona euro e per l'Europa, e quindi ci dovrà essere un'azione comune e rapida. E Almunia ha esortato proprio i ministri europei che si troveranno oggi e domani a Bruxelles a prendere decisioni rapide ed efficaci. Le previsioni economiche puntano anche su una ripresa dell'Eurozona, ma a partire dal 2010, quando anche l'Italia potrebbe ritornare a una crescita dello 0,6%. Il nostro paese, però, a differenza della Francia, viene indicato all'interno dei criteri di Maastricht, con un rapporto deficit-PIL che salirà nel 2008 al 2,5% nel 2008 e al 2,6% nel 2009, quindi rimanendo al di sotto della soglia del 3%. Rimane però pesante il fardello del debito al 104,1% nel 2008 e destinato a salire nel 2009 al 104,3%. Grazie. Da Bruxelles è tutto. Grazie Enrico Brivio in collegamento da Bruxelles. Tanto per dare anche qualche buona notizia in questo quadro, innanzitutto le borse che sono positive, l'S&P MIB guadagna in questo momento l'1%, il MIB l'1,18%, è positiva è tutta Europa. Vi ricordiamo naturalmente l'appuntamento con Che Borsa Fa. E poi buone notizie arrivano anche sul fronte dei tassi, che sono ancora in calo sul mercato interbancario. L'Euribor a tre mesi è sceso al 4,73% dal 4,76% di venerdì. Non sono invece tanto buone le notizie che ha diffuso questa mattina la Confcommercio, che ha fornito il dato di settembre del suo indicatore dei consumi. C'è stata una flessione dello 0,4% in termini di quantità acquistate. Si tratta del settimo segno meno consecutivo da marzo. Per avere un'idea, nei primi 9 mesi l'indicatore mostra una riduzione dell'1,9% rispetto ad un più 1,1% dello stesso periodo del 2007. Siamo alla cronaca adesso, iniziando dalla Sardegna. Perfugas, provincia di Sassari. Questa mattina una rapina in banca, feriti gravemente 2 clienti e proiettili sono stati trovati addirittura in un asilo nido là vicino. La nostra corrispondente. È stato operato all'ospedale di Tempio Pausania, uno dei due anziani clienti rimasti feriti stamattina in una fallita rapina all'agenzia del Banco di Sardegna di Perfugas, nel Sassarese. Le condizioni di Giorgio Piana, 77 anni, sono gravi, dopo che è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al petto, sparato attorno alle 8.30 durante un conflitto a fuoco fra i carabinieri e i rapinatori, costretti a fuggire senza bottino. Le condizioni dell'altro ferito, Luca Pischedda, 79 anni, non sono preoccupanti. I carabinieri hanno fermato poco dopo un giovane del Nuorese, accusato di essere uno dei quattro banditi ricercati dalle forze dell'ordine. La banda è entrata nella banca durante la notte da una porta sul retro dell'edificio e ha atteso nei bagni l'apertura degli uffici. Al loro arrivo i tre impiegati sono stati presi in ostaggio in attesa dell'apertura della cassaforte a tempo, mentre i clienti venivano lasciati entrare per non destare sospetti. Ma una pattuglia dei carabinieri di passaggio con cui il bandito che faceva da palo ha ingaggiato un conflitto a fuoco ha fatto fallire la rapina. I malviventi sono scappati prima su un Alfa 33, poi hanno bloccato un automobilista e gli hanno rapinato la macchina per proseguire la fuga. Anche quest'auto è stata poi ritrovata dai carabinieri. Roberta Secci, GR 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari. Dalla provincia di Sassari andiamo invece a Napoli per parlare dell'agguato fuori da una sala giochi nel quartiere di Secondigliano. 5 i feriti, tutti minorenni fra i 12 e i 16 anni. La camorra dunque colpisce anche i ragazzini. Il commento di Daniele Biecchessi. La camorra infrange le regole della vecchia mafia. Non si colpiscono donne e ragazzini neanche se hanno compiuto sgarri di enorme entità ai grandi boss. E invece nel cuore del suo potere criminale, il quartiere di Secondigliano a Napoli, la camorra avverte 5 bambinetti cresciuti troppo in fretta nel traffico di sostanze stupefacenti al dettaglio. Li hanno gambizzati in modo plateale all'interno di un circolo ricreativo, una sala giochi. I killer non li volevano uccidere, ma intimidire. Che cosa vuole dire un avvertimento nei confronti dei ragazzini? Vuol dire che lo spaccio di droga a Secondigliano è l'affare numero uno della camorra, più di ogni altra illegalità. Vuol dire che quei 5 ragazzini rappresentano solo la punta di un iceberg, di una rete estesa di loro coetanei, 12-16 anni, da mesi impegnati a distribuire bustine di eroina e cocaina a Napoli. Così in caso di fermo di polizia le pene potrebbero essere minime. Vuol dire che le maglie dello spaccio sono intricate e la camorra oggi è troppo esposta alla repressione dello Stato per sentirsi sicura. Ecco perché sparando, intimorendo, afferma la sua esistenza. Ma colpendo dei giovani determina anche la sua debolezza. Perché, come scrisse Giovanni Falcone, la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un inizio, una sua evoluzione e avrà dunque anche una sua fine. Notizia di questa mattina che la procura di Vigevano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Alberto Stasi, il giovane accusato dell'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, commesso il 13 agosto dell'anno scorso a Garlasco. Orario 22:30. Parte la trasmissione curata dall'ex venerabile maestro della P2, Licio Gelli. A fare scandalo è bastata la conferenza stampa di presentazione. Con Venerabile Italia sottotitolo La vera storia di Licio Gelli, Odeon TV ha creato un caso che ha sollevato richieste di intervento al garante della comunicazione e da questa sera ne trarrà i benefici. Le frasi di Gelli, d'altronde, sono parse dette apposta. Piano di rinascita... Era un piano di rinascita per ripristinare un po' l'ordine e per cambiare certe questioni che ancora oggi non funzionano, come la magistratura che non sta funzionando. D'altra parte tutti si sono un po' abbeverati, tutti ne hanno presi degli spunti. Il Gelli pensiero continua con la rivendicazione della propria identità. Sono fascista e fascista morirò. Con il giudizio sprezzante su partiti e manifestazioni studentesche. Con la valutazione che sul piano di rinascita democratica Berlusconi è l'unico che può andare avanti non perché è iscritto alla P2 ma perché ha la tempra del grande uomo. E via di questo passo. Per il Premier l'abbraccio di Gelli appare scomodo, velenoso, lo ha definito il parlamentare del PDL Osvaldo Napoli. Quanto alla trasmissione, c'è da scommettere che nelle 9 puntate sulla storia d'Italia dalla guerra di Spagna agli anni 80, l'ex gran maestro della P2 non svelerà alcuno dei molti misteri che hanno insanguinato il paese e per cui è stato chiamato in causa. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Dalla televisione al cinema sono arrivati nelle sale in questo fine settimana molti dei film presentati al Festival di Roma. Ebbene, sentiamo come sono andati al botteghino. I ragazzi di High School Musical 3 travolgono tutti. Arrivano e salgono direttamente al primo posto del botteghino. Nessuna sorpresa, una conferma della passione dei giovanissimi che già si era vista all'anteprima, al Festival di Roma. ma il primo film in concorso entra solo al sesto posto. È Pride and Glory dell'accoppiata Farrell-Norton. Detective. Questa cosa non andrà come volete voi. Il film non ce l'ha fatta a superare autentici colossi come il robottino Wall-E e una new entry che ha goduto di ottima promozione e distribuzione capillare, l'irresistibile francese Giù al Nord. Mi posso fidare? Ancora da Roma, Il passato è una terra straniera. Il film di Daniele Vicari con Elio Germano entra al nono posto. Quanto ti manca, Giorgio? Solo un esame. Certo che ci mancava proprio l'avvocato, eh? Veramente lui vuole fare il magistrato. Alla seconda settimana di programmazione resiste L'uomo che ama di Maria Sole Tognazzi, film d'apertura della rassegna approdato per primo nelle sale, decimo. Convince un po' meno il pubblico il film sulla banda Baader-Meinhof che si deve accontentare di una tredicesima posizione. Sei uscito da tutta città! Queste strade non esistono! Devi tornare a tutta città! Forse è meglio chiedere a qualcuno. Aspettiamo che chiedano loro. Non è riuscito nell'impresa di entrare nella top ten, nemmeno Si può fare, la commedia di Giulio Manfredonia con Claudio Bisio, undicesimo posto. Apprezzatissimo a Roma, può sperare nell'effetto Tam Tam. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Due anni di crescita piatta per l'Italia, lo dicono le previsioni d'autunno della Commissione Europea, diffuse questa mattina. Una leggera ripresa con il PIL allo 0,6% solo nel 2010. Previsioni dunque peggiori rispetto a quelle fatte dal nostro governo nel DPEF. Anche nel resto d'Europa la crescita subisce una battuta d'arresto. Obama avanti tutta. Secondo un sondaggio pubblicato oggi da USA Today, il candidato democratico supera John McCain di 11 punti e sarebbe in vantaggio in gran parte degli stati chiave. All'Italia il commissario straordinario Fantozzi inizia oggi ad esaminare l'offerta vincolante presentata dalla CAI. Nel pomeriggio a Fiumicino l'assemblea del fronte del no. I sindacati dei piloti e degli assistenti di volo informeranno i lavoratori sui motivi del no all'accordo. Accordo invece sottoscritto da CGL, CISL, UIL e UGL. Una tentata rapina in banca questa mattina in provincia di Sassari. Nella sparatoria con i carabinieri sono stati feriti gravemente due clienti. Un proiettile è stato trovato nella parete del vicino asilo nido. In Campania sono finiti i fondi per le prestazioni nelle strutture sanitarie convenzionate. I pazienti sono costretti a pagare il prezzo intero. Sull'università si registrano aperture fra maggioranza e opposizione. Il governo per la riforma sarebbe pronto a procedere non per decreto ma per disegno di legge. Intanto sindacati e associazioni presentano le loro proposte. Analisi del sangue, ma anche radiografie, ecografie, TAC a pagamento. Succede in Campania, dove sono finiti i finanziamenti della regione per le strutture private accreditate, a quanto ha scoperto Radio 24. Alcune ASL hanno già terminato il budget, per altre la situazione è critica. Questo implica che fino al 31 dicembre i pazienti debbano pagare gli esami a prezzo pieno, anche se si ha l'esenzione totale. Insomma, l'alternativa sarebbe rivolgersi alle strutture pubbliche, considerando però i lunghi tempi di attesa e soprattutto il fatto che in Campania alcuni ospedali erogano prestazioni solo ai ricoverati. La nostra Raffaella Calandra, che ha scovato la vicenda, ha anche intervistato Vincenzo Danna, presidente di Federlab, l'associazione che raggruppa circa 1500 ambulatori privati campani accreditati. Saranno sospese, diciamo cronologicamente a seconda della particolare situazione che in ogni ASL si è determinata, l'erogazione delle prestazioni con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto i volumi di prestazione, i correlati limiti di spesa fissati dalla Regione Campania per l'anno 2008 si sono già da tempo esauriti. In concreto vuol dire che chiunque, chi fino adesso arrivava in uno di questi centri con una ricetta del medico, fino adesso poteva avere delle prestazioni con un costo, diciamo, ben ridotto, d'ora in poi, fino alla fine dell'anno, dovrà invece pagare. Ci dispiace questo, sono proprio le fasce deboli, cioè gli esenti, che invece dovranno pagare. Gli altri, diciamo, quelli delle fasce non proprio in esenzione, fino a 36 euro, che è il prezzo della franchigia, potranno continuare a pagare i 36 euro e ottenere le prestazioni all'interno di questa fascia. Qualora il costo delle prestazioni specialistiche esuberasse i 36 euro, dovranno rimetterci di tasca propria la differenza che prima corrispondeva all'azienda. Ma quelli che vengono proprio particolarmente penalizzati sono le persone anziane, sono i pensionati, sono coloro i quali godevano delle fasce di esenzione, così come i malati cronici, quant'altri erano assistiti a totale carico del servizio sanitario regionale. Quindi adesso, se vorranno godere di qualche prestazione, quindi da una radiografia ad una TAC, ad una ecografia, chi fino ad oggi era esente dovrà invece pagarlo. Quali sono i costi di queste prestazioni? Dai pochi euro di una prestazione di laboratorio, 1, 2, 3 euro, ai 18 euro per una visita specialistica, ai 20 euro per un'ecografia, ai 60-70 euro di una prestazione di radiologia, e si va a finire ai 1000 euro per una PET-TAC, che sono prestazioni di radiodiagnostica a più alto costo, ma sono, questa è la fascia più rara. In genere la spesa media si aggira intorno ai 40-50 euro per prestazione. Ecco, Presidente, lei ha detto che termineranno gradualmente in base alla situazione delle singole, delle singole ASL. Quali sono quelle messe peggio? Dov'è che il blocco avverrà prima? I volumi contrattualmente fissati e definiti in alcune aziende sono già esauriti intorno alla data del 15-20 ottobre, in altre aziende si esauriranno nella prima decade di novembre. È bene precisare che questo avviene in quanto c'è un abnorme spostamento di prestazioni dal comparto ambulatoriale pubblico a quello privato accreditato in conseguenza della radicale ristrutturazione della chiusura e dell'accorpamento di molte strutture ambulatoriali, perché la Regione Campania deve rientrare da uno spaventoso debito di circa 8 miliardi e 500 milioni di euro. Voi avete calcolato a quanto più o meno ammonta questo incremento dei pazienti che si sono rivolti alle strutture private? E c'è un incremento che noi calcoliamo essere intorno al 15-20% rispetto all'anno scorso. C'è già un incremento fisiologico della domanda di 7-8%, ci troviamo di fronte ad una inaspettata richiesta non prevista né finanziata di circa il 25-30%. La situazione più acuta si sta verificando nella città di Napoli ed alcune ASL della provincia di Napoli. Mentre l'unica azienda sanitaria e quindi l'unica provincia che gode di una certa disponibilità è l'azienda di Benevento. E questa era l'intervista di Raffaella Calandra, Vincenzo Danna, presidente di Federlab, l'associazione che raggruppa circa 1500 ambulatori privati campani accreditati. Ci sarebbe accordo nel governo per le nuove regolarizzazioni di immigrati, che in realtà si tratta di nuovi ingressi, mentre la proposta fa discutere. Il decreto flussi 2008 riguarderà 170.000 persone. Gli immigrati verranno ripescati dalle graduatorie del 2007, per cui non si dovrà presentare nessuna nuova domanda. Non si tratta però, come alcuni dicono, di regolarizzazione. Mascia Salvatore, legale dell'Associazione Stranieri in Italia. Non si tratta di regolarizzazione, bensì è semplicemente la richiesta di nulla osta lavoro da parte di datori lavoro per cittadini stranieri che in teoria sono residenti all'estero. Quindi comunque la procedura prevederà, al fine del rilascio del nulla osta, che lo straniero vada in ambasciata italiana a chiedere il visto per lavoro e faccia rientro in Italia per poi chiedere il permesso di soggiorno per lavoro. Assolutamente siamo fuori dalla procedura tipica di una sanatoria, quindi insomma. Le colf e le badanti verranno privilegiate rispetto ai lavoratori degli altri settori, vista l'alta richiesta della loro attività, anche se ancora non si conosce la quota loro destinata tra i nuovi 170.000. Già annunciati poi paletti per evitare che i datori di lavoro stranieri mascherino, attraverso richieste di assunzioni di personale domestico, ricongiungimenti familiari, molto più complicati da attuare. Ancora l'avvocato Mascia Salvatore. È più complicato e lo sarà ancora di più dal 5 novembre, visto che ci sarà un decreto legge che prevede veramente dei criteri ancora più restrittivi. Quindi, essendo più difficile la via del ricongiungimento, forse a volte meglio ci provano a tentare la via dei flussi. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E lunedì, e come spesso accade a quest'ora, parliamo di pausa pranzo. Sentiamo dove oggi ci porta il nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di cuoco, ebbene oggi vi porta a Firenze, in una via centrale, in una via del centro storico, in via dei Tavolini, dove c'è una cantinetta chiamata Cantinetta dei Verrazzano, che è di proprietà di un'azienda vinicola. Ebbene, questa cantinetta da tanti anni offre dell'ottimo pane, perché al tempo stesso dentro è forno, è pasticceria, è allo stesso tempo salumeria. E cosa si può mangiare? Si possono mangiare innanzitutto degli stuzzichini, ad esempio i salumi, tutti i salumi toscani gustati con pani speciali, appunto preparati nello stesso negozio, ma anche in salate in pinzimonio. E poi c'è qualche golosità per chiudere, come la torta della nonna e il tradizionale dolce al semolino. Lo ripeto, Cantinetta dei Verrazzano a Firenze, in via dei Tavolini. Le 13:31 minuti, questo è il GR Extra Large, le notizie della giornata. 2 anni di crescita piatta per l'Italia, lo dicono le previsioni d'autunno della Commissione Europea diffuse questa mattina. Una leggera ripresa con il PIL allo 0,6% solo nel 2010. Cresce la disoccupazione in tutta Europa. Il commissario economico Almunia chiede un intervento comune del vecchio continente. Dopo l'annuncio della settimana scorsa da parte del ministro dell'Interno Roberto Maroni, 4 studenti di un istituto magistrale di Milano, fra cui 2 minorenni, sono stati denunciati per aver effettuato un picchetto davanti a scuola. L'accusa è interruzione di pubblico servizio. Obama avanti tutta. Secondo un sondaggio pubblicato da USA Today, il candidato democratico supera John McCain di 11 punti e sarebbe in vantaggio, secondo Zogby, in gran parte degli stati chiave. All'Italia il commissario straordinario Fantozzi inizia oggi a esaminare l'offerta vincolante presentata dalla CAI e nel pomeriggio a Fiumicino l'assemblea del fronte del no. I sindacati dei piloti e degli assistenti di volo informeranno i lavoratori sui motivi del no all'accordo. Accordo invece sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e UGL. Sciopero degli statali organizzato dalla CGIL oggi nel centro Italia. Secondo il ministero, i calcoli fatti su un campione del 10% delle amministrazioni indicano un'adesione sotto il 15%. Una tentata rapina in banca questa mattina in provincia di Sassari. Nella sparatoria con i carabinieri sono stati feriti gravemente 2 clienti. Un proiettile è stato trovato conficcato nella parete di un vicino asilo nido. Approfondimento economico dedicato all'Alitalia. Oggi pomeriggio si riunisce a Fiumicino il fronte del no all'accordo tra Alitalia e CAI, ma ci sono anche altre notizie che arrivano dal commissario straordinario Vincenzo Miglietta. Sì, è il giorno del confronto e delle probabili scelte su come proseguire il braccio di ferro con la CAI, quello delle sigle sindacali che non hanno firmato l'accordo di Palazzo Chigi. Per il momento non sono state previste iniziative di lotta, anche se da parte di piloti e assistenti di volo si valuta la possibilità di uno sciopero. Secondo il cosiddetto fronte del no, costituito da ANPAC, UP, Avia, ANPAV, SDL, CUB, Trasporti, l'ultimo testo firmato a Palazzo Chigi non rispetterebbe quanto sottoscritto a settembre con il governo sui contratti e sulle modalità di selezione del personale. Su questo punto però la compagnia aerea italiana rimanda gli accordi sottoscritti sempre a settembre da tutti i sindacati. Intanto per la DD CAI Savelli la fase sindacale è comunque chiusa, grazie, dice, alla ragionevolezza dei confederali e dell'UGL. A far discutere vi sono anche le parole di Colaninno sul possibile ricorso alla chiamata nominativa se i piloti non ci ripensano. Oggi intanto entra nel vivo anche l'esame dell'offerta da parte del commissario straordinario Fantozzi. Si tratta della parte con i conti in ordine di AZ Fly. Fantozzi dovrebbe entro la fine del mese valutare il prezzo offerto dalla CAI, con la stima fatta invece dagli advisor di Alitalia. È tutto. Grazie Vincenzo, nel salutarti ci chiediamo quando finalmente metteremo la parola fine su questa vicenda. E andiamo ad un'altra vicenda contrattuale, quella del contratto del pubblico impiego. Dopo l'accordo fra Ministero della Funzione Pubblica, CISL e UIL, resta la CGIL a protestare appunto contro l'accordo sul contratto. Oggi c'è la prima tranche dello sciopero in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. L'autunno è già bollente e dopo la scuola tocca ora al pubblico impiego. Con questi slogan la CGIL è scesa oggi in piazza per il primo dei 3 scioperi regionali del settore proclamati contro il protocollo d'intesa sul rinnovo dei contratti, che a differenza di CISL e UIL non ha sottoscritto. Ad aprire il calendario delle mobilitazioni nella giornata odierna le regioni del centro. L'accordo separato raggiunto a Palazzo Chigi lo scorso 30 ottobre è stato definito dal segretario generale della FP-CGIL Carlo Podda un accordo truffa. Oggi c'è un'inflazione che è il doppio di quella che abbiamo avuto nei 2 precedenti bienni contrattuali. L'offerta del governo è di 60 euro lordi medi pro capite per 2 anni, più 10 euro per la produttività, vale a dire un totale di 80 euro. Nei 2 bienni precedenti, con un'inflazione che per l'appunto era doppia, l'accordo che facemmo era rispettivamente di 101 e 103 euro. Quindi oggi abbiamo, col doppio dell'inflazione dei piani precedenti, un'offerta del governo che è più bassa di quella che abbiamo ottenuto negli anni scorsi. Le astensioni proseguiranno il 7 novembre nelle regioni del nord e il 14 novembre nelle regioni del sud e delle isole, in attesa dello sciopero generale che la CGIL Funzione Pubblica si appresta ad attuare a dicembre con una manifestazione nazionale a Roma. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Intanto il Ministero della Funzione Pubblica ha diffuso i dati sull'adesione, sono dati parziali perché riguardano meno del 10% delle amministrazioni della zona, ebbene adesioni sotto il 15%, questo stando al Ministero. Parliamo ora di scuole e di università, innanzitutto con una cronaca che è arrivata questa mattina. Ricorderete qualche giorno fa il Ministro dell'Interno Maroni aveva promesso denunce per chi occupava le aule, si riferiva in particolar modo agli studenti delle scuole superiori. E questa mattina è arrivata la notizia che 4 studenti dell'Istituto Magistrale Statale Gaetana Agnesi di Milano, 3 ragazze e un ragazzo di cui 2 minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri. L'accusa è interruzione di pubblico servizio. Erano stati identificati intorno alle 9 del mattino mentre insieme con altri colleghi stavano effettuando un picchetto all'ingresso della scuola. E questo ci porta a parlare della cosiddetta onda, ossia questo movimento di protesta che sta attraversando l'università e la scuola. Ci spostiamo proprio sugli Atenei, perché il governo sarebbe orientato per la riforma dell'università a procedere con un disegno di legge e non con un decreto. E segnali di apertura in questo senso si registrano da entrambi gli schieramenti politici perché la riforma degli Atenei possa avere una convergenza più ampia. Oggi a Roma, conferenza stampa dei sindacati e delle organizzazioni. Andrea Viale. Sì, queste aperture, Alessandra, in realtà non sembrano aver convinto molto i responsabili delle diverse associazioni che rappresentano il mondo dell'università, quindi docenti, ricercatori e studenti, ma anche i sindacati che oggi, come dicevi, alla Sapienza hanno presentato una serie di proposte per modernizzare l'università italiana, un'università però che dicono deve restare pubblica, mentre le misure previste dalla legge 133 rischiano di costringere molti atenei a privatizzarsi per sopravvivere. Ecco, ma a sintetizzare alcuni degli interventi proposti da queste associazioni sentiamo Alberto Civica, che è segretario generale della UIL Università e Ricerca. Ci sarebbero 100.000 cose che si potrebbero fare per migliorare il sistema immediatamente. Punto 1, la governance, impedire che i rettori possano restare rettori a vita, ci sono rettori che hanno 28 anni di incarico. 2, sui concorsi, semplicemente pubblicare i curriculum di quelli che partecipano, non i verbali delle commissioni. 3, andare a guardare nel merito quali sono i corsi che vanno chiusi, invece di lanciare numeri su studenti 1 o 2 o 3, che peraltro risultano quasi sempre non veri, andare a vedere esattamente quali sono i corsi che hanno la possibilità di avere studenti e hanno un senso e quelli che invece vanno chiusi. Ecco, queste alcune delle proposte di queste associazioni che si sono dette tutte disponibili a un confronto con il governo, a patto però che il governo sospenda i tagli di risorse e il blocco del turnover che dicono rischia di mettere in ginocchio l'università italiana. Voi la linea. Grazie Andrea. Qualche protesta questa mattina al Politecnico di Milano all'inaugurazione dell'anno accademico. Marco Lignana. Sì, buongiorno, qui al Politecnico di Milano, a Bovisa, è finita da poco l'inaugurazione dell'anno accademico, inaugurazione decisamente movimentata, mentre fuori dal Politecnico gli studenti di Comunione e Liberazione manifestavano in favore del rettore Giulio Celio. Un paio di colleghi di Azione Universitaria ha interrotto il discorso del rettore. I ragazzi, membri del Senato accademico e quindi ammessi all'inaugurazione, Hanno esposto uno striscione con scritto «Voi baroni preoccupati, noi studenti disoccupati». Hanno distribuito volantini e hanno urlato contro gli sprechi del mondo accademico. È stato lo stesso rettore a interromperli prima di riprendere la parola per criticare duramente i tagli decisi dal Ministero dell'Istruzione. Tra i presenti anche il presidente della Bocconi, Mario Monti, e il governatore della Lombardia, Formigoni. È una riforma necessaria, ma bisogna incoraggiare chi ha intrapreso una strada virtuosa rispetto a chi invece accumula sprechi, ha sottolineato il governatore. E mentre al Politecnico si svolgeva l'inaugurazione, gli universitari dei collettivi hanno inscenato un cosiddetto assedio culturale in piazza a qualche centinaio di metri dal Politecnico. Poi qualcuno si è spostato verso l'Unità per protestare contro il decreto 133, che invece ha inscenato una protesta silenziosa. Sono stati gli estimisti e i dottorandi. E dal Politecnico a tutto, restituisco la linea. Grazie Marco Lignano, ora andiamo a fare un po' una panoramica dei giornali stranieri in edicola, Simone. Sì, si parla moltissimo di elezioni americane, ma sentiamo che cos'altro scrivono, di cos'altro si occupano i quotidiani esteri. In una giornata largamente dominata dalle elezioni americane, sulle prime pagine dei quotidiani internazionali c'è spazio anche per la crisi finanziaria. Nei termini più istituzionali, quelli scelti per esempio dal Financial Times, titolo «Cresce la pressione nel Regno Unito e nella UE per un taglio dei tassi», oppure scelti sempre dall'Les Echos francese, che intervista il numero uno di General Electric, Jeffrey Immelt, che dice «In questo momento rileggo Keynes», oppure ci sono giornali che scelgono dei tagli particolari, per esempio l'apertura del Wall Street Journal: simulazioni errate al computer hanno contribuito ad affossare il gigante delle assicurazioni americano AIG. Oppure è interessante anche il taglio dell'Herald Tribune, titolo «Gioco d'azzardo sull'economia globale, il fallimento come investitori delle amministrazioni che per far fronte a disavanzi di bilancio hanno scelto investimenti che poi in questo momento si sono rivelati fallimentari». C'è poi spazio sui giornali per l'emergenza in Congo, titolo della prima pagina del Guardian «Fermate i massacri in Congo, il monito di Francia e Gran Bretagna». Oppure la tedesca Frankfurter Allgemeine Zeitung, la fame spinge indietro gli Hutu, e la fotonotizia di prima pagina dedicata appunto all'emergenza umanitaria. Oppure c'è spazio anche per la lotta alla pirateria. Financial Times, responsabile dell'organizzazione marittima ONU, Mitropoulos, chiede una forza internazionale per combattere i pirati nel Golfo di Aden. Prima di chiudere voglio ricordarvi la fotonotizia che troviamo sulla prima pagina dello spagnolo El País: la famiglia reale fa festa a Donna Sofia, che compie oggi 70 anni e li compie in realtà tra le polemiche innescate dalle dichiarazioni su omosessualità e aborto pubblicate nella sua biografia. È tutto per oggi. Ora sentite un po' questa chicca. Yes, hello, Mrs. Governor. Hello, this is Sarah, how are you? Fine and you, this is Nicolas Sarkozy speaking, how are you? Oh, so good, it's so good to hear you. Thank you for calling us. Non era Nicolas Sarkozy. Non è Nicolas Sarkozy, ma dall'altra parte del telefono c'è veramente Sara, ed è Sarah Palin, la candidata a vicepresidente repubblicana. In realtà le voci che si sentono in questa telefonata sono di Sébastien Tridel e Marc-Antoine Audette, che fanno parte di una radio canadese, del Quebec per essere esatti. E già hanno avuto altri illustri... Altre vittime. Chirac, Mick Jagger, Bill Gates, insomma, hanno finto di essere Nicolas Sarkozy, hanno chiamato la Palin, la Palin ci è cascata in pieno. Come avete sentito del resto. E come state sentendo anche in sottofondo, e tra l'altro con un accento francese molto esagerato, il falso Sarkozy ha chiesto alla Palin come vanno le cose, citando un suo consigliere americano che in realtà è un cantante, Johnny Holiday. Esattamente, poi ha chiesto di andare a caccia insieme, purché non si porti dietro il vicepresidente Dick Cheney. Grasse risate tra tutti e due. Questa è una delle tante notizie che arrivano in queste ore finali che ci stanno portando verso le elezioni americane. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. 2 anni di crescita piatta per l'Italia, in recessione fino al 2009, lo dicono le previsioni d'autunno della Commissione Europea. Cresce la disoccupazione in tutta Europa. Dopo l'annuncio della settimana scorsa da parte del ministro Maroni, 4 studenti di un istituto magistrale di Milano sono stati denunciati per aver effettuato un picchetto davanti alla scuola. L'accusa è interruzione di pubblico servizio. Obama, avanti tutto, il candidato democratico supera John McCain, secondo i sondaggi, in gran parte degli stati chiave. All'Italia, il commissario straordinario Fantozzi inizia oggi a esaminare l'offerta vincolante presentata dalla CAI, e nel pomeriggio a Fiumicino l'assemblea del Fronte del No. Tentata rapina in banca questa mattina in provincia di Sassari, nella sparatoria con i carabinieri sono stati feriti gravemente 2 clienti. Ne abbiamo parlato anche nell'apertura di questo GR extra large. L'America si prepara ad eleggere il nuovo presidente. I sondaggi danno ancora in forte vantaggio Obama. Sentiamo invece il nostro inviato a Chicago, Sergio Nava, che ha incontrato un uomo che Obama lo conosce bene. Se c'è qualcuno che conosce bene Barack Obama a Chicago, quel qualcuno è Hugh Miner, 67 anni, avvocato e partner dello studio legale Miner, Barney & Gallan. Hugh Miner conosce Barack Obama dal 1992, quando chiamò personalmente la scuola di legge di Harvard per offrire un lavoro al giovane e brillante laureato in legge dal nome così curioso. La risposta della centralinista fu eloquente. Lei è il numero 643, si sentì dire. Miner lasciò il suo messaggio e fu richiamato il giorno stesso da Obama, che avrebbe scelto, poco più tardi, di lavorare con lui, tornando a Chicago. Una scelta fatta col cuore. Nella città ventosa viveva infatti la futura moglie Michelle, ma anche, in qualche modo, fu una scelta etica. Miner ha lavorato infatti col primo sindaco nero di Chicago, Harold Washington. Inoltre, il suo studio ha lottato contro la discriminazione dei neri d'America e ha spesso trattato il tema del voto delle minoranze. Con lui Obama rimarrà 10 anni, dal 1992 al 2002, prima lavorando a tempo pieno, poi, una volta eletto senatore dello stato dell'Illinois, solo per alcuni mesi l'anno. Barack is more substance than anything else. Barack è più sostanza di qualsiasi altra cosa, mi confida Miner. È una persona enormemente brillante che si trova molto a proprio agio col suo modo di essere e con le sue abilità, ma non in un senso, diciamo, inappropriato. Lui ha grande talento, si impegna molto, si trova al governo in questo paese in primis perché è interessato ai temi della politica. Non lo fa perché ama stare al centro dell'attenzione. Lui vuole giocare un ruolo importante nell'affrontare temi importanti. Gli chiediamo, ma Barack Obama cos'è? Un outsider? Una persona fuori dagli schemi? Afferma Miner, Barack non deve nulla alla macchina democratica di Chicago, non deve niente a nessuno. Ha sviluppato da solo il proprio percorso che lo ha portato fino a questo punto. È riuscito a costruire una coalizione molto potente di forze, afroamericani, indipendenti. È riuscito a costruirsi una base che gestisce con successo. Miner mi confida che Obama, noto per essere un negoziatore, qualcuno che ama mettere tutti d'accordo, ha dentro di sé convinzioni molto forti che cerca di far prevalere. Gli chiedo se un'ipotetica presidenza Obama potrebbe entrare nella storia. Risponde Miner. Penso che lui può entrare nella storia, porterà un tipo di approccio completamente nuovo al governo degli Stati Uniti, una maggiore apertura, una maggiore attenzione ai bisogni della gente. Sulla scena mondiale si farà rispettare dagli altri paesi. I leader mondiali troveranno in lui una persona disposta a lavorare con loro, desiderosa di creare partnership e cooperare per trovare soluzioni comuni a problemi comuni. Naturalmente la scelta del nuovo inquilino della Casa Bianca è un evento di portata mondiale, a maggior ragione interessa i paesi che gli Stati Uniti definiscono canaglia. Uno di questi è l'Iran. Adib Fateli è stato a Teheran per alcuni giorni, ecco il suo reportage. Se gli iraniani potessero partecipare al voto USA, per Obama sarebbe un autentico trionfo. Nonostante i media ufficiali ostentino indifferenza verso chi tra i due candidati conquisterà la Casa Bianca, nelle università, nel bazar e persino nella grande moschea della capitale Teheran, dove per 2 giorni abbiamo cercato di sentire il polso della gente, emerge un unico dato. La totalità delle decine di persone interpellate voterebbe per Barack Obama, nome che scandito all'iraniana Obama, in lingua farsi significa «lui è con noi». Estenuata da un lungo confronto con la comunità internazionale per il nucleare e preoccupata da una difficile congettura economica, la gente sembra riproporre grandi speranze nell'affermazione di un uomo come il nero Obama, considerato diverso da un predecessore come George Bush, che ha combinato troppe guerre per non far temere che McCain le voglia continuare. Nel bazar c'è già chi vede nell'uscita di Bush e Ahmadinejad dalla scena un segno benaugurante per la pace in Medio Oriente. Incontriamo 4 studentesse che si divertono ad ascoltare la musica rap nella vicinanza dell'università Al-Azad. Le ragazze si definiscono supporter del candidato Moro perché è bello e attraente, dice una. Obama è giovane come noi e che vogliamo cambiare questo mondo pieno di imposizione. Li fa con un'altra che come le sue compagne porta il velo slacciato che lascia intravedere i capelli. All'improvviso cala un silenzio che riporta tutti alla realtà. Un pulmino verde con i vetri vetri oscuratisi fermo a poca distanza. La scritta Kasht Ershade ci rivela che si tratta delle temutissime battuglie di buon costume che in un attimo raccolgono due ragazze che non avevano osservato l'abbigliamento islamico. Una perché indossava un vestito color rosso, l'altra aveva l'orlo della gonna 4 cm sopra le ginocchia coperta dai pantaloni. E vi ricordiamo che Radio 24 dedicherà una lunga diretta all'esito delle elezioni americane, collegamenti con gli Stati Uniti, commenti, testimonianze, tutto questo a partire dalle 21 di domani e fino al mattino dopo. Altri aggiornamenti potete trovarli sul nostro sito www.radio24.it e su quello del Sole 24 Ore www.ilsole24ore.com. Lunedì è il momento del Dizio Radio. Anche questa volta che oggi vorrei affrontare un acronimo. L'altra volta ci siamo occupati di G8, questa volta acronimo nel senso di sigla che sta al posto della parola, dell'espressione più lunga, no? Tratterei la BCE, la Banca Centrale Europea, cioè l'organo europeo che coordina le banche nazionali dei paesi membri dell'Unione Europea. Ma che cosa sia esattamente, quando è nata, mi pare anche piuttosto di recente fra l'altro, quale sia la sua funzione, ce lo spiega ovviamente Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore. Banca Centrale Europea, tra l'altro, Giuseppe, ne sentiamo spesso parlare in questi giorni, in modo particolare nella situazione di crisi, in questi giorni taglierà tassi di interesse, no? Sì, è chiaro, sono decisioni attese sempre molto influenti sul corso della borsa, ma poi sulla vita di tutti, sui mutui da pagare e via dicendo. La Banca Centrale Europea è appunto quello che era la Banca d'Italia in Italia. Con la nascita dell'euro, la moneta unica, è nata una Banca Centrale Unica, cioè un organismo unitario che decide e realizza la politica monetaria per l'area euro, cioè per quei paesi dell'Unione Europea che hanno deciso di aderire all'euro, che hanno aderito alla moneta unica. E decide, dicevi, la politica monetaria con lo scopo principale di mantenere sotto controllo l'andamento dei prezzi, no? E quindi sì, il potere d'acquisto e l'inflazione. Ecco. L'obiettivo principale è proprio quello del controllo dell'inflazione, per questo è spesso criticata, perché essendo un organismo doverosamente indipendente anche dai governi degli Stati membri, non segue troppo spesso, non segue e non è tenuta a seguire le istanze che magari vengono in ordine a un abbassamento dei tassi o a politiche più espansive. Quello che realizza è quello di tenere la stabilità dei prezzi, però ha anche altri strumenti, oltre quello dei tassi di interesse è l'istituto in prima istanza che emette le banconote, cioè emette moneta come le banche centrali, svolge operazioni di cambio, custodisce le riserve dell'Unione Europea e quindi è effettivamente la banca centrale dei paesi che hanno aderito all'euro. Si compone di una BCE, la banca centrale vera e propria, e poi c'è il cosiddetto sistema europeo delle banche centrali che appunto comprende le banche centrali come la nostra Banca d'Italia, che dopo la nascita della BCE, di questo sistema europeo delle banche centrali, sostanzialmente agiscono come bracci operativi per quello che attiene alla politica monetaria di quello che decide il sistema europeo, quindi insieme tutte le banche centrali, e la BCE è al centro di questo sistema. Ma Giuseppe, le banche centrali degli Stati membri devono comunque sempre sottostare alle decisioni della Banca Centrale Europea? Per quello che attiene alla politica monetaria sì, e però partecipano anche alle decisioni del sistema europeo delle banche centrali, perché esiste un consiglio dei governatori che si riunisce insieme al direttorio e di cui fa parte il direttorio della Banca Centrale Europea, e insieme prendono le decisioni più importanti in ordine alla politica monetaria. Grazie Giuseppe Busia. Roberta Giordano vi dà appuntamento col Dizio Radio il prossimo lunedì. Durerà 2 anni, recessione fino al 2009 per l'Italia, disoccupazione in crescita in Europa. Queste le previsioni di Bruxelles. Obama avanti tutta, il candidato democratico supera John McCain, secondo i sondaggi, in gran parte degli stati chiave. Prime denunce per gli studenti delle superiori. A Milano 4 ragazzi accusati di interruzione di pubblico servizio per aver fatto un picchetto. All'Italia il commissario Fantozzi inizia a esaminare l'offerta vincolante presentata dalla CAI e nel pomeriggio a Fiumicino l'assemblea del Fronte del No. Tentata rapina in banca nel Sassarese, feriti gravemente 2 clienti, un proiettile è stato trovato nella parete del vicino asilo nido. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Potete scriverci extralarge@radio24.it e potete riascoltarci www.radio24.it. Adesso la linea va a Tempo di Sport. Il prossimo GR alle 15 con XL, ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.